Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati su Ferry Boat, il viaggio verso l'economia sociale. Questa puntata è dedicata all'energia rinnovabile. Lo facciamo perché la domanda a cui dobbiamo rispondere è: il petrolio finirà o non finirà? Già nella precedente puntata avevamo avuto l'occasione di parlare con Massimo Nicolazzi, che ha scritto proprio in questi giorni in libreria Il prezzo del petrolio, dove sostiene in realtà che il problema è ben lungi dall'essere drammatico e abbiamo di fronte a noi, soprattutto se risparmieremo adeguatamente, ancora lunghe stagioni di alimentazione fossile. Ci sono invece altre teorie, come quella di Jeremy Rifkin, un grande futurologo americano, che sostiene che invece siamo alle soglie del rubinetto secco, cioè sostanzialmente forse 10 anni, forse meno, forse poco più, e il petrolio diventerà, non sarà più disponibile per muovere l'umanità. In realtà poi la verità è che adesso è arrivato il momento di investire sulle nuove tecnologie per la produzione di energia. Prima fra tutti, quella più pulita e quella anche più disponibile, l'energia rinnovabile. Roberto Rizzo è responsabile della rivista Fotovoltaici, buongiorno. Buongiorno a voi. Voi seguite attentamente l'evoluzione di questo tipo particolare di energia rinnovabile fotovoltaico, che fra l'altro ha sorpreso un po' tutti, perché eravamo fanalino di coda come produzione in Europa e nel mondo fino a pochi mesi fa, e adesso invece siamo fra i leader, i potenziali leader addirittura assoluti. Cos'è successo? È successo che in Italia dal 2007 è in vigore la legge del conto energia, la legge che permette di installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa e di vendere praticamente tutta l'energia che viene prodotta a un prezzo altamente vantaggioso. Questo vuol dire che l'impianto fotovoltaico, la spesa per acquistare e installare l'impianto fotovoltaico viene ammortizzata in circa 8-10 anni. Per altri 10 anni, per arrivare a un totale di 20 anni, invece ci si guadagna. Quindi il fotovoltaico è diventato un investimento finanziario. In un momento di crisi finanziaria ed economica, effettivamente molti cittadini, molte famiglie si sono rese conto che in questa maniera ci si guadagna, si fa del bene all'ambiente e quindi si ha il portafoglio anche più pesante. Non soltanto le famiglie, ci sono anche dei grossi impianti, grandi impianti che vengono installati ad esempio sui capannoni industriali, quindi alcune centinaia di kilowatt di impianti fotovoltaici, oppure grossi impianti che sono installati su terreni marginali. Ho sentito, ho letto anche, c'è molto fermento sull'energia rinnovabile, dalle serre dove si fanno i pomodorini di Pachino con il fotovoltaico sopra, alla tangenziale di Torino che ho letto da qualche parte potrebbe addirittura per intero essere ricoperta da pannelli fotovoltaici. Ma funziona esattamente così, Roberto? Cioè più i pannelli sono installati, maggiore la produzione di energia? Se dovessimo riempire l'Italia di pannelli fotovoltaici, non avremmo più bisogno del petrolio? Beh, diciamo che il potenziale sicuramente è enorme. Ogni secondo il nostro pianeta viene colpito da una quantità di energia solare sufficiente a garantire il fabbisogno energetico dell'intera umanità. Quindi, insomma, si tratta di un potenziale sicuramente molto molto grosso. Si sono fatti dei passi in avanti consistenti dal punto di vista scientifico e tecnico. Oggi il fotovoltaico ha delle efficienze doppie rispetto soltanto a 10 o 15 anni fa, c'è ancora molto da fare. Ci sono anche delle ricerche, ad esempio, in quello che si chiama il solare termodinamico, cioè delle centrali solari fatte con specchi che concentrano l'energia del sole in un solo punto, e in questo punto avvengono delle reazioni termodinamiche, quindi una produzione di calore praticamente a elevate temperature, dei cicli termodinamici e una produzione quindi pulita in queste grosse centrali di calore e energia elettrica. C'era un problema di materia prima, mi pare di aver capito, cioè il silicio è ancora indispensabile oppure la tecnologia ha trovato delle alternative? Beh, il 90% delle celle fotovoltaiche prodotte nel mondo sono ancora fatte in silicio. Alcuni anni fa, quando il mercato fotovoltaico è esploso intorno al 2007-2008, c'è stata una mancanza di silicio per alcuni mesi e questo ha provocato praticamente un leggero aumento del costo del fotovoltaico. In questi ultimi mesi sono nati stabilimenti che producono proprio il silicio per applicazioni fotovoltaiche. Ricordiamo come in passato il il silicio per il fotovoltaico era il silicio di scarto dell'elettronica, invece adesso è il contrario. Adesso si produce più silicio per applicazioni fotovoltaiche piuttosto che silicio per l'elettronica. Quindi questo problema è praticamente risolto. Ci sono studi scientifici molto interessanti che vengono anche realizzati qua in Italia per dispositivi alternativi al silicio. Quindi pensiamo, non so, a materiali simili alla plastica, che hanno delle efficienze inferiori rispetto al silicio, ma che costano molto, molto di meno, oppure materiali biologici. C'è ad esempio la Regione Lazio, in collaborazione con l'Università di Tor Vergata, che sta realizzando proprio una ricerca in questo ambito. Ci sono ricerche, entro alcuni anni sicuramente esisteranno in commercio anche dei materiali alternativi al silicio, ci sono già in commercio, quelli che si chiamano i film sottili, che vengono realizzati appunto in materiale diverso al silicio, che hanno efficienze inferiori rispetto al silicio, ma che costano di meno. Grazie Roberto Rizzo. Per una volta abbiamo la sensazione di poter raccontare una storia in cui il nostro paese vive da protagonista e non nei ruoli marginali. In effetti sull'energia rinnovabile, per definizione il paese del sole, per una volta può dire la sua. Tutto questo è avvenuto in pochissimi mesi, abbiamo recuperato posizioni su posizioni grazie, diceva Roberto Rizzo, anche all'attività, anche al conto energia. Il conto energia è erogato dal GSE, che è una struttura pubblica di derivazione del Ministero dell'Economia. Abbiamo in linea Gerardo Montanino, che è il direttore di GSE, che gestisce questo conto energia, che adesso a cui chiediamo di spiegare come funziona, che cos'è questa bacchetta magica. Buongiorno. È un meccanismo che incentiva l'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici collegati alla rete di potenza minima di un kilowatt, quindi potenza superiore al kilowatt, e fornisce un incentivo per ogni kilowattora prodotto, che viene poi caricato sulla bolletta degli italiani attraverso una apposita voce di costo che si chiama componente A3. In aggiunta all'incentivo che i soggetti che producono questa energia ricevono da noi, c'è poi da portare in conto, per una corretta valutazione della convenienza economica, il valore di questa energia, che può essere utilizzata a casa propria, e allora il risparmio in bolletta è di almeno 15, 16, 18 centesimi di euro a kilowattora, oppure ceduta alla rete qualora ecceda le capacità di consumo proprie, e in questo caso il prezzo che viene riconosciuto anche dal GSE, che gestisce pure l'acquisto di energia, è quello che si determina in borsa ora per ora nella zona elettrica in cui l'impianto ricade. Volendo semplificare, vale circa ulteriori 10 centesimi di euro a kilowattora. Ecco, per semplificare, il singolo, l'individuo, piuttosto che l'impresa che vuole accedere al conto energia, si deve rivolgere direttamente al GSE o passa dal fornitore dell'energia Enel, Edison? Passa dal fornitore soltanto per l'attività di connessione dell'impianto alla rete, perché sì, naturalmente l'impianto, una volta fatto, va collegato alla rete elettrica. Invece poi per tutto il resto, quindi sia per l'incentivo che viene detto conto energia, sia per vendere eventualmente l'energia, per cederla qualora non sia necessaria per i propri fabbisogni, può gestire il rapporto con noi GSE. Ecco, a me risulta, avendo fatto una piccola indagine, che sono quasi 40.000 gli impianti di fotovoltaico che hanno avuto accesso al conto energia. E la stima, che entro il 2010 che voi fate, è di quasi 100.000 di questi impianti, è così? È così, i 40.000 impianti per un totale di circa 500 megawatt possono essere controllati e seguiti giorno per giorno, perché nella home page del nostro sito web www.gse.it siamo tenuti a aggiornare continuamente questo dato, perché la potenza al momento incentivabile è fino a 1200 megawatt, fino a quando raggiungeremo i 1200 megawatt, e poi in realtà da quel giorno ci saranno ulteriori 14 mesi di tempo per completare l'impianto, farlo entrare in esercizio ed avere ancora diritto all'incentivo. Questo salvo ulteriori modifiche che i ministeri interessati, sviluppo economico e ambiente, vorranno introdurre, perché probabilmente questo 1200 non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati in Europa come produzione da fonti rinnovabili entro il 2020. E che sono di leadership, se non abbiamo capito male. Fino ad oggi, nell'anno scorso, siamo stati il terzo paese in Europa come sviluppo del fotovoltaico, in realtà siamo stati anche il terzo come sviluppo dell'eolico, ma certamente gli obiettivi al 2020 sono ambiziosi per tutti i paesi e quindi dovremo fare come Italia del nostro meglio per continuare a sviluppare nei prossimi anni certamente il fotovoltaico, certamente l'eolico, le biomasse e quello che sarà possibile ancora fare di idroelettrico e geotermico. Grazie direttore Montanino, le tecnologie da questo punto di vista probabilmente hanno solo che cominciato a darci delle risposte, visto che su questi fronti non si era forse investito abbastanza. Allora le tecnologie, quindi delle fonti rinnovabili, potranno dare delle risposte importanti. Ne parliamo con Annalisa D'Orazio, che è direttore di ricerca dell'Istituto dello IEFE della Bocconi. Annalisa D'Orazio, buongiorno. Buongiorno. Intanto lo IEFE ci può spiegare in una battuta che cos'è? È l'Istituto di Economia dell'Energia e dell'Ambiente dell'Università Bocconi, esiste dagli anni 70, si occupa da sempre di ovviamente tematiche più focalizzate sull'economia, visto che la Bocconi è un'università di economia, segue in particolare anche tutta l'evoluzione delle politiche, quindi ha a che fare molto anche con un ruolo di indirizzo degli stakeholder dello IEFE, ma del mercato italiano in generale verso l'evoluzione delle politiche energetiche ambientali sia nazionali che internazionali. Beh, insomma, un ruolo sia di ricerca e di insegnamento di queste tematiche all'interno dell'università, ma poi anche ha sempre da sempre svolto un ruolo attivo anche rispetto al sistema istituzionale. E stavo dicendo che chiaramente in questi ultimi mesi, proprio il caso di dire, l'attenzione su questi temi e la vostra attività è diventata molto più strategica, perché adesso l'attenzione da parte della politica e delle istituzioni è cambiata rispetto a questi temi? Beh, certo, sicuramente c'è un'attenzione forte dovuta innanzitutto a una concentrazione all'interno delle politiche europee su queste tematiche, quindi man mano che l'Europa è diventata più forte nel rappresentare le politiche degli stati nazionali, è entrato molto più massicciamente il problema, il tema dell'energia e dell'ambiente anche con una visione più europea, quindi questo ha invaso anche la sfera nazionale, visto che essendo uno Stato membro dobbiamo recepire comunque queste politiche. Poi c'è un'attenzione correlata al fatto che mentre una volta le politiche ambientali erano viste come quasi una sorta di concorrenti delle politiche energetiche, no? Erano viste come l'extracosto, no? Le esternalità ambientali erano un costo in più per il mondo dell'energia, mentre poi con gli anni questo non è stato più vero, nel senso che man mano che si è avuta un'evoluzione delle tecnologie, dei sistemi tecnologici, dei prodotti che producono, fanno consumare energia attraverso tecnologie più sostenibili, queste sono diventate addirittura competitive, quindi l'innovazione di queste tecnologie finisce sul mercato perché a volte è più conveniente rispetto a quelle tradizionali, questo, tecnologie fossili. Quindi l'energia rinnovabile non è un pannicello caldo, come qualcuno afferma, che serva a compensare in qualche modo il pericolo che l'energia fossile possa essere non più facilmente accessibile. Tecnologia dell'energia rinnovabile è un percorso preciso, non effimero, che porterà ad una stabile produzione di energia per l'umanità. Certo, io do sempre due indicatori a dimostrazione di ciò. Il primo indicatore è non si capirebbe il perché quasi tutti i paesi del mondo, direi tutti, poi nel quasi ci escludo quelli poveri, quindi i paesi industrializzati del mondo hanno una grande penetrazione di tecnologie rinnovabili, oggi parlo ovviamente di attualmente, e le mettono nel piano di sviluppo futuro. Qualsiasi iniziativa di questo tipo, cioè quando sul mercato si vedono entrare delle tecnologie, vuol dire che queste tecnologie hanno un valore per il mercato, quindi a prescindere dal loro valore ambientale. Infatti noi questa iniziativa la vediamo anche in paesi che non sono molto sensibili o comunque non lo sono adesso alle tematiche ambientali a livello globale, no? Al cosiddetto Kyoto. Quindi noi prendiamo i mercati che negli ultimi 2-3 anni e che hanno grandi prospettive, cioè che danno queste prospettive nelle loro indicazioni di sviluppo industriale, vediamo che la Cina, l'India, gli Stati Uniti come, diciamo, un paese che è stato sempre ambiguo rispetto alla sottoscrizione del protocollo di Kyoto, sono i paesi dove c'è una massiccia penetrazione di queste tecnologie. Evidentemente non è soltanto un discorso ambientale, è un discorso di valore di queste tecnologie, di interesse del mercato a crearle, a posizionarle sul mercato, insieme ovviamente a quelle convenzionali, perché non reggono ovviamente da sole la richiesta di consumo energetico che queste economie ad alto sviluppo hanno. Però ci sono, evidentemente, se vengono fatte queste scelte non sono più appunto i famosi pannicelli caldi, e comunque Grazie. Non sono solo fatte perché ci sono degli interessi o comunque degli obiettivi ambientali in gioco, sono assolutamente dei prodotti e dei sistemi che sono in grado di reggere la sfida delle tecnologie convenzionali. Poi non dimentichiamo che sono anche sottoposte a minore incertezza dell'andamento del prezzo delle fonti fossili. Quindi. Grazie Annalisa D'Orazio, si capisce quindi perché si chiama Green Economy, perché non la chiamiamo economia sociale. Le energie rinnovabili sono un elemento forte di questo nuovo sistema che sta generando, che poi si porta dietro stili di vita e di consumo diversi, che vede una generazione nuova di imprenditori. Basta guardare forse nei registri della Camera di Commercio per rendersi conto di quante aziende, di quante imprese di produzione di energia rinnovabile sono nate negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Domenico Inglieri, che è della GIFI, Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane, intanto partiamo da qui, ingegnere. È vero, ci sono nate tantissime imprese sul fronte dell'energia rinnovabile negli ultimi anni. Noi stimiamo che si sono creati 15.000 posti di lavoro in questi ultimi anni per un fatturato di 2 miliardi di euro. Oggi l'Italia è la quarta nazione nel mondo come installazione di impianti fotovoltaici. Tenga presente che fino a 2 anni fa era nelle ultime posizioni, quindi c'è uno sviluppo notevole di questa energia alternativa in Italia, anche legata al fatto che questo sistema di incentivazione approvato dal governo nel 2005 ha favorito la costruzione di questi impianti. Questo conto energia di cui abbiamo parlato poco fa in collegamento con GSE, che è stato forse a rischio per qualche momento. Diciamo questo, che i primi due decreti ministeriali avevano in sé dei punti critici che non hanno favorito lo sviluppo. Il terzo decreto ministeriale, quello del 2007, del 19 febbraio 2007, invece ha risolto i problemi, diciamo, tecnici, e questo ha permesso lo sviluppo del fotovoltaico, che in questo momento sta camminando a un ritmo superiore a quello che avvenne in Germania circa 10 anni fa. Quindi siamo sulla cresta dell'onda. Ho sentito dire però che rispetto all'anno scorso comunque si sente fortemente la contrazione del mercato. C'è la crisi finanziaria, e questo è un qualcosa al di fuori del mondo fotovoltaico, che coinvolge tutta l'industria italiana ed europea. Chi deve fare un impianto normalmente veniva finanziato da una banca tramite un mutuo o tramite un prestito. Oggi le banche sono particolarmente restie a dare questo tipo di concessioni, e questo ha rallentato il mercato. Noi pensiamo che verrà superato entro la fine dell'anno, la seconda parte dell'anno, e che il mercato riparta alla stessa velocità di prima. Ma è un fattore esterno, non è un fattore legato al mercato fotovoltaico. Capito. Secondo i vostri calcoli, secondo i calcoli del GIFI, arriveremo ad essere i primi produttori, per quello che può contare ovviamente, i primi produttori di energia da fotovoltaico in Europa? Sicuramente negli anni futuri noi recupereremo molto della distanza che si è creata con la Germania in Germania negli anni passati. Noi prevedevamo quest'anno che fossero installati circa 700 megawatt di impianti fotovoltaici, e questo è un numero enorme se si pensa che 2 anni fa erano 70, quindi siamo 10 volte maggiori rispetto a 2 anni fa. La cosa molto interessante però è che l'Italia, che è la nazione dove il costo di energia elettrica è più elevato delle altre nazioni, sarà la nazione in cui si raggiungerà prima il pareggio tra il costo di energia elettrica da fonti tradizionali, carbone, petrolio eccetera, a fonti rinnovabili tipo fotovoltaico. Questo viene chiamato grid parity, e tutto il mondo scientifico internazionale prevede che l'Italia sarà la prima a raggiungere questo pareggio. Grazie. E potrebbe avvenire anche negli anni 2015-2016, qualcosa del genere. Grazie, questa è effettivamente, grazie all'ingegnere Iglieri, forse è un primato più importante di quello rispetto a quello quantitativo, perché apre la strada e la spiana. Strada che invece è tutt'altro che spianata, anzi, forse era più difficile, più tortuosa, proprio perché siamo un paese ricchissimo dal punto di vista architettonico ed artistico, per l'eolico che soffre dell'essere visto come uno schiaffo alla bellezza del paesaggio piuttosto che dei nostri centri urbani. Quindi per Simone Togni, che è segretario generale dell'associazione del DIANEV, che riunisce le imprese dell'eolico, è davvero una vita dura, è così? Ma in realtà i risultati, diciamo, degli ultimi anni dimostrano che questa è anche quelli che sono i sondaggi sulla popolazione vengono effettuati, dimostrano che l'accettabilità dell'eolico nel nostro paese è tra le prime in assoluto, è pari a quella del fotovoltaico. Certamente l'impegno che come associazione abbiamo sempre messo e recentemente ribadito con la firma di un protocollo con le associazioni ambientaliste proprio per un corretto inserimento nel paesaggio è una delle cose che riteniamo giusto fare, perché diciamo il nostro territorio deve essere al meglio salvaguardato, sempre facendo mantenendo gli aspetti della produzione elettrica e di quelli che sono i benefici che questa tecnologia può dare. Un'altra nell'immaginario collettivo c'è un'altra questione che viene data per scontata, che l'eolico è più costoso del fotovoltaico, è così? Beh no, questo fortunatamente non è, devo dire che sono un po' i luoghi comuni sull'eolico sono uno dei motivi della campagna pubblicitaria che è stata lanciata dall'Associazione Europea nell'ambito della prima giornata mondiale del vento che si è appena conclusa, e proprio diciamo chiunque sappia di eolico sa che tra le fonti rinnovabili in generale il fotovoltaico è la più diciamo tecnologicamente arretrata rispetto alle altre fonti rinnovabili da un punto di vista economico e quindi d'altra parte maggiori possibilità di sviluppo. L'eolico viceversa è insieme alle altre rinnovabili diciamo maggiormente efficienti tra le più tecnologicamente avanzate e peraltro è una di quelle infatti che garantisce un ritorno diciamo del punto di vista ambientale ed elettrico rispetto all'investimento estremamente interessante. Ecco, forse l'eolico è meno, non so come dire, meno familiare del fotovoltaico, cioè si fa fatica a immaginare nel giardino di casa una struttura eolica, invece è più semplice immaginare un tetto fotovoltaico, questo forse sì. Certamente anche una tecnologia che è stata molto ben radicata nel corso degli anni nell'immaginario collettivo come fonte di energia rinnovabile per eccellenza, peraltro questo viene anche molto facile perché tutti noi sappiamo che il sole è l'elemento di principale rinnovabilità nella produzione elettrica e peraltro sappiamo che il fotovoltaico, lo sfruttamento dell'energia al sole ha il più grande potenziale in assoluto. È vero anche, e questo è il passaggio forse che noi per primi come associazione siamo molto giovani ma ci dobbiamo impegnare ulteriormente per farlo, che l'eolico, l'energia del vento è una risorsa che viene direttamente dal sole, come tutti sanno il vento si genera per il tramite delle modifiche di temperatura di masse di aria calda e fredda che quindi generano questi movimenti e lo sfruttamento di queste masse di energia consente la produzione di energia elettrica in maniera molto molto importante. Un altro dato che sfugge spesso è il fatto che lo scorso anno, a fronte di 4.000 megawatt oggi raggiunti di installato dell'eolico, si sono prodotti oltre 6,5 miliardi di kilowattora dal vento in Italia, quindi parliamo della copertura di consumi di circa 7 milioni di persone, consumi domestici ovviamente. Una bella cifra. Grazie a Simone Togni e in bocca al lupo. Ferribot finisce qui, la prossima puntata parleremo di lavoro. Grazie, arrivederci.